Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Piazza San Marco è bellissima a fine aprile. La primavera è al suo meglio, l'aria è tiepida, le giornate sembrano piene di promesse. I turisti ci sono e sono una benedizione per i veneziani, ma non è ancora la ressa inumana che d'estate si riversa sulla città senza lasciare alcuno spazio ai legittimi abitanti. E l'eccitazione del Festival del Cinema sembra ancora lontana. O forse no. Questo sabato 25 aprile le signore sedute a bere un caffè al Florian guardano perplesse i passanti da sopra la loro tazzina. C'è un gruppetto di persone che chiacchierano mentre fumano una sigaretta. Hanno facce conosciute. Improvvisamente un lampo attraversa le menti delle placide veneziane. Sono tutti attori e celebrities di mezzo mondo. E in una concentrazione inaspettata ad aprile. C'è Woody Harrelson con la moglie Laura. Niente a che vedere con la sua psicopatica compagna assassina nel film Natural Born Killers, quella pazza di Mallory. For all eternity, until you and I die, and die, and die again. Till death do us part. Yeah! Baby, by the power vested in me as God of my world, pronounce us husband and wife. C'è Charlize Theron, al suo attivo un Oscar e svariate nomination, che si fa aiutare a salire sul motoscafo che l'attende in banchina. Dietro di lei la potentissima direttrice di Vogue, Anne Wintour, con lo sguardo rigorosamente protetto da enormi occhiali neri e il solito caschetto copiato a Caterina Caselli, che attende il suo turno. Poco distante da lì, Penelope Cruz, accompagnata dal marito Javier Bardem, ride a una battuta di Bono, il cantante degli U2. Solo la stilista Stella McCartney non ride, intenta com'è a salutare l'ex presidente francese Jacques Chirac con cui discute di moda. C'è da tenere alto l'onore della moda inglese contro gli attacchi dello chic francese. Fra i piccioni della piazza più famosa del mondo passeggia anche l'attore Edward Norton, il protagonista di American History X, della 25esima ora, di Fight Club. Signori, benvenuti al Fight Club. Prima regola del Fight Club. Non parlate mai del Fight Club. Seconda regola del Fight Club. Non dovete parlare mai del Fight Club. A questo punto le brave signore del caffè Florian iniziano a pensare di avere le traveggole. Che cosa sta succedendo? Come mai questa parata di VIP a 5 mesi dal Festival del Cinema? Al Teatro della Fenice oggi si celebra un matrimonio, ma non sono le nozze di Figaro, la prima delle 3 opere in italiano del giovane Mozart, anche se gli sposi e gli invitati indossano le mascherine che ci si aspetta a Venezia dal 700 in poi. Lo sposo non è un povero servo come Figaro, al contrario. La sua famiglia, secondo la classifica Forbes dei più ricchi del mondo, è al 59esimo posto. Lui si chiama François-Henri Pinault e Venezia è un po' la sua seconda casa. Suo padre è il proprietario di Palazzo Grassi, sede della fondazione che porta il suo nome, così come sua è Punta della Dogana, l'edificio 600esco alle spalle della Basilica della Salute. Sarà per questo che il Teatro della Fenice gli apre le porte per celebrare il matrimonio del figlio. Poi tutti gli invitati si trasferiranno alla Dogana per un sontuoso ricevimento che si concluderà solo alle prime ore del mattino. E la sposa? Chi è questa fortunata Susanna che finalmente può impalmare il suo Figaro? La sposa è magnifica, in uno splendido vestito con il corpetto ricamato e una gonna di seta pesante. Una principessa tascabile, visto che non arriva al 1,60 m. A differenza del marito, dalla pelle chiara e con i capelli biondi come i francesi del nord, la sua è una bellezza tipicamente latina, con la carnagione ambrata e gli occhi neri. Nonostante l'altezza, la sposa non è seconda a nessuno. Una volontà ferrea l'ha portata dov'è in questo momento, così come il gusto per il lavoro e le grandi responsabilità che l'hanno portata in pochi anni a diventare una delle attrici e produttrici più potenti degli Stati Uniti. E dire che all'inizio era solo una delle tante ispaniche arrivate dal Messico per fare fortuna a Los Angeles, con solo un nome esotico da annunciare ai provini. Salma Hayek. Salma Hayek. Salve è un augurio che si fa quando si conosce qualcuno di nuovo. È un bel modo di accogliere le persone, un modo per comunicare, è una forma di pacifica disposizione verso la conoscenza e la reciproca accettazione. È questo il significato della parola araba Salma, il femminile del nome Salam o Selim. Ma perché una ragazza messicana, nata nella città di mare di Coatzacoalcos, nello stato messicano di Veracruz, ha un nome arabo? La ragione è nell'origine della famiglia Hayek, i cui bisnonni paterni partirono dal lontano Libano per cercare fortuna nel nuovo continente. Uomini che barattarono un antico destino per un futuro migliore. E infatti il Messico ha regalato agli Hayek denaro e posizione sociale. Il padre di Salma è un alto dirigente in una grande compagnia petrolifera che si è persino candidato a sindaco della sua città. Salma nasce quindi in una famiglia ricca, solida, rassicurante. Forse per questo la bambina Bruna sin da piccola mostra una sicurezza in se stessa che lascia presagire il suo destino. I'm sure she gon' rock your world, like the way she won't rock with her. Now do you want that love? Salma, lo afferma lei stessa, cresce viziata dai genitori che stravedono per lei. Ma il desiderio di assicurarle un'educazione degna di una bambina della buona società li convince a iscrivere Salma, quando compie 12 anni, a un collegio cattolico statunitense, l'Accademia del Sacro Cuore di Grand Coteau, in Louisiana, profondo sud. È facile immaginarsi un'atmosfera da Via col Vento. Una grande costruzione in legno bianco, il vasto porticato sorretto da colonnine, i grandi alberi che circondano la casa, ragazze che passeggiano tenendosi a braccetto, qualcuna su un'altalena, qualche altra più temeraria che si arrampica su uno dei rami più alti. Ma in realtà per Salma il collegio è un tormento. Ero abituata a che mia madre cucinava per me e mi aiutava in tutto. Invece in collegio dovevo farmi il letto, dovevo mangiare tutto quello che mangiavano le altre. Ma Salma è una bambina piena di risorse e in breve tempo risolve la questione mensa a modo suo. Feci un patto con le cuoche e il personale di cucina. Avevo bisogno di una dieta speciale perché avevo dei problemi di stomaco. E allora, quando andavo in Messico, mi procuravo della tequila, avevo 13 anni, che poi portavo a tutti quelli della cucina e in cambio loro mi preparavano del cibo speciale. Ma nonostante l'intraprendenza, a scuola Salma stenta a ingranare e lo stesso vale con l'inglese. Alla fine le viene diagnosticata la dislessia, che anche se spiega la difficoltà ad apprendere di Salma, nonostante l'evidente intelligenza della ragazzina, non l'aiuta ad ambientarsi. Quando capisce che sta rischiando l'espulsione, forse soprattutto per quella sua certa abitudine di introdurre superalcolici in un collegio cattolico, Salma cavalca la situazione e decide di abbandonare la scuola. Il ritorno in Messico in fondo non è male. A Coatzacoalcos è pur sempre la figlia di un uomo molto conosciuto e l'adolescenza è un'età meravigliosa. Terminato il liceo, Salma si trasferisce a Città del Messico, dove inizia a frequentare l'università. Ma dopo pochissimo il suo interesse si sposta dai libri ai copioni. Me dijeron toda mi vida que estabas muerta, abuela. Mala hierba nunca muere. Ay, abuela. Le immagini di scarsa qualità tipiche della televisione anni Ottanta, nelle soap opera in voga a quei tempi, sembrano aumentare il senso del ridicolo degli ambienti pretenziosi all'interno del quale si muovono i protagonisti. Le donne hanno pettinature super costruite, permanenti tenute sotto controllo da pettinini tempestati di strass e fiori, vestiti che le fasciano sottolineando i fianchi latini. Gli uomini? Beh, hanno anche loro capelli che andrebbero tenuti sott'occhio, giubbotti avvitati e camicie aperte molto più di quanto sia lecito concedersi. Ogni attore apre esageratamente gli occhi, corruccia continuamente la bocca mentre le folte sopracciglia sottolineano ogni sentimento muovendosi all'impazzata. È la recitazione richiesta dalla soap opera, bellezza. Programmi dove il dramma è sempre portato all'estremo e dove la passione vince sempre. Non si discosta da questi binari neanche Teresa, una delle soap di maggior successo nel Messico di quegli anni. Protagonista indiscussa del programma è Salma Hayek, che dopo qualche piccolo provino in giro riesce a ottenere la parte a 23 anni. Teresa è la classica ragazza che decide con caparbietà di allontanarsi dal quartiere povero da cui proviene e a qualsiasi costo, anche se questo significa lasciare Diego, il suo grande amore, senza una lira, per riuscire a sposare il ricco Raul. Insomma, gli ingredienti classici della soap ci sono tutti, e infatti Teresa diventa un successo incredibile. In breve tempo la Hayek può spostarsi solo accompagnata dai bodyguards per sfuggire alle pressioni dei suoi fan. in Messico diventa una star. Ma un po' come è successo per il collegio, anche in questo caso è Salma che anticipa le mosse del destino. Forse il suo futuro di star della televisione messicana è destinato ad essere luminoso per molti anni ancora, ma a lei non basta. L'orizzonte è troppo vicino, troppo stretto, provinciale. Lei ha un cervello che funziona e ambizioni che travalicano il confine del suo paese. Salma ha dei sogni e uno di questi ha un nome: Hollywood. Per questo, all'apice della notorietà, si trasferisce a Los Angeles per studiare recitazione con la famosa Stella Adler. E non va benissimo. Nella città degli angeli, Salma è una come tante, anzi, è una latina, una delle tante messicane in cerca di fortuna. Un bel cambiamento per lei, dalle guardie del corpo che la proteggono dai fan all'indifferenza degli americani. Anche con i corsi di recitazione non va meglio. A causa della dislessia, per Salma, imparare lunghi testi a memoria e per giunta in inglese è veramente un'impresa. Nonostante il collegio in Louisiana e l'università iberoamericana, il suo inglese è ancora pesantemente accentato e a volte la malattia la fa inciampare sulle parole. Ma non basta questo a distoglierla dal suo obiettivo e tanta volontà viene infine premiata. La storia è questa. C'è un giovane regista, sta guardando la televisione. Scanala velocemente fin quando non si imbatte in un canale in lingua spagnola. Va in onda una soap opera. La protagonista è una bellissima ragazza messicana, volitiva, sexy, impavida. Il regista sta cercando la protagonista del suo prossimo film. E in questo momento capisce che l'ha trovata. È la moglie del regista, Elizabeth Avellan, che si occupa della produzione dei suoi film, a mettersi in contatto con Salma. Salma? Mi chiamo Elizabeth Avellan, sono un produttore cinematografico. Forse ho una parte per te. Vediamoci con il regista e parliamone. Per Salma è come se dalle nuvole che galleggiano nel cielo sopra Los Angeles, proprio lo stesso Dio con la Vergine Santa che ha imparato a pregare fin da bambina, si sporgessero per poggiarle una mano sul capo e la benedicessero. È la sua grande opportunità, lo sente. All'appuntamento si presenta al suo meglio. Si sente una vera chica, forte, determinata. E decide di restare forte anche quando di fronte a lei si ritrova un tipo davvero strano. Una faccia da schiaffi sotto un cappello da cowboy che sarebbe sembrato fuori luogo anche in un film di John Wayne. Ma incredibilmente, in questo caso, il cappello, la faccia da schiaffi e la sicurezza che ostenta fanno tutti parte del personaggio. L'uomo che Salma, lo capisce subito, sta cambiando la sua vita, si chiama Robert Rodriguez. Robert Rodriguez. L'incontro porta subito a un accordo. Salma reciterà nel prossimo film di Rodriguez, Desperado, a fianco di Antonio Banderas. Salma non crede alle sue orecchie. Banderas, un attore mito per tutti gli ispanici. Banderas, il protagonista dei migliori film di Almodóvar, colui che ce l'ha fatta anche in America. A questo punto ha un'unica domanda che le frulla nel cervello, che è: perché io? Mi piace avere donne forti nei miei film. Ho 5 sorelle, sono cresciuto con questo modello. E Robert Rodriguez sa come introdurre una donna forte. Sa che si merita una presentazione importante. In Desperado, quando arriva in scena per la prima volta, Salma, camiciola allacciata sotto al seno, ventre scoperto e una gonna leggera con lo spacco, è una visione da mozzare il fiato. Tanto che due auto che stanno percorrendo la strada si scontrano perché i due guidatori sono troppo occupati a mangiarsela con gli occhi. E lei, assistendo alla scena, se la ride con sfrontata sicurezza. Desperado viene prodotto con soli 7 milioni di dollari, una sciocchezza per gli standard hollywoodiani, e ne guadagna 50. Un miracolo che solo Rodriguez può fare. E il secondo miracolo è che Salma, grazie a questo film, viene improvvisamente proiettata nel cinema di prima classe, quello che aveva sempre desiderato. Tutto quello per cui aveva lottato fin dal primo momento, da quando, lasciando i fasti del mondo televisivo latino, si era lanciata in un'avventura apparentemente impossibile. Ecco. Tutto questo sembra finalmente a portata di mano. L'incontro di Salma Hayek con Robert Rodriguez è uno dei più classici destini incrociati, di quei destini che veramente possono cambiare la vita dei loro protagonisti. Ma chi è Robert Rodriguez? Lo scopriamo tra poco, a Destini Incrociati. Everybody's got a thing, but some don't know how to handle it. Always reaching out. worth having. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. 'Cause I'll be standing on the side when you check it out. Destini incrociati. Non datemi soldi, non datemi gente famosa, ma datemi la libertà. E in cambio avrete un film che sembrerà gigantesco. Se c'è una frase che può riassumere la personalità di Robert Rodriguez, questa è la più giusta, la più vera. La sua forza è quella di non avere mai avuto bisogno del sistema per alimentare la sua creatività, il suo desiderio di fare cinema. Non sono i soldi, non sono i meccanismi complicatissimi che sono alla base dello star system hollywoodiano che indirizzano le sue scelte, le sue curiosità. Lui nasce e si sente un outsider di quel mondo, fiero di esserlo così come è fiero delle sue origini. E sono le sue origini che alimentano i suoi primi lavori, opere che affondano le radici in un mondo latino mitizzato, forse, ma mai sottovalutato nella sua crudezza e negli eccessi. Ma è anche un mondo pervaso dal sense of humor di un uomo che prende molto in giro se stesso e quello che lo circonda. Non prendersi sul serio mentre seriamente affronta quasi ogni parte che compone un film. Questa è forse la cifra principale del suo carattere. Forse è un tratto familiare. Quando sei uno di 10 fratelli, come puoi sopravvivere se non possiedi la capacità di adattarti alle situazioni e voltarle a tuo beneficio senza tanti drammi? Per esempio, non hai 9 fratelli, ma 9 attori a tua disposizione. La passione di Robert per il cinema inizia presto. Già a 11 anni inizia a girare i suoi primi video casalinghi. E cosa c'è di meglio quando poi hai a disposizione una folla di comparse e di attori? Ho sempre infilato i miei fratellini nei film che realizzavo, solo perché erano lì, eh? Poi però quei film vincevano ogni concorso, perché la gente ama i ragazzini che recitano. In breve tempo la passione di Robert lo porta a uscire dal ristretto ambiente familiare. Al liceo Robert viene incaricato di filmare una partita di calcio della scuola, ma quando presenta il lavoro, la reazione del consiglio scolastico è umiliante. Il giovane regista viene rimosso dall'incarico, ma che razza di utilità può avere per la scuola un contributo nel quale non si vede quasi mai il gioco? Che cosa crede di fare questo ragazzo? Interviste ai genitori che fanno il tifo sugli spalti, la reazione della gente che incita le squadre, i piccoli gesti che senza accorgersene i giocatori fanno quando cercano di raccogliere concentrazione prima di un lancio. Questo ragazzo sa cosa vuol dire fare un servizio su una partita? Tutto quello che la scuola vuole è solo una ripresa noiosa forse, ma continuativa della partita, e invece il risultato è tutta un'altra cosa, inaspettata. Ma che cosa si crede di fare quel ragazzo? Di fare il cinema. Esattamente, Robert vuole fare il cinema e non gli bastano più i filmini fatti in casa e le partite di football. Vuole fare il grande salto, vuole vivere in quel mondo, vuole imparare a fare il regista. Subito dopo il liceo, Rodriguez si iscrive alla facoltà di comunicazione dell'Università del Texas, lo stato in cui vive. I suoi voti non sono alti abbastanza da garantirgli di entrare nel programma di cinematografia, ma lui non si abbatte. Disegna fumetti, realizza piccoli video horror e di azione e continua a lavorare. A forza di presentare i suoi lavori in giro, riceve la sua prima vera occasione: girare un film per il mercato dei video ispanico. È una porta che si apre, o per essere più realistici, un piccolo spiraglio. Robert non può aspettarsi un budget per la realizzazione del film, anzi, i soldi ce li deve mettere lui, ma intanto ha trovato qualcuno disponibile a distribuirlo. Ora, il punto è dove trovare i soldi. Abbiamo sempre trovato il modo di raggirare il problema dei soldi in casa nostra. Ce l'avevo nel sangue. Una frase profetica. Per trovare i soldi, Robert Rodriguez si sottopone alla sperimentazione di una nuova medicina per il colesterolo. Per una decina di giorni si trasforma in una cavia umana e giace nel letto di una clinica texana dove gli somministrano fluidi sconosciuti, non testati, probabilmente pericolosi, ma che goccia dopo goccia rappresentano esattamente quello che cerca: la libertà. Grazie a queste gocce, a questi farmaci, Rodriguez ottiene la parte maggiore dei soldi che gli servono per realizzare il film che ha in mente e non deve dire grazie a nessuno. Di quei giorni gli restano sulle spalle le cicatrici di dove le flebo sono rimaste attaccate, ma per lui hanno lo stesso valore dei tatuaggi che i Maori si fanno incidere ovunque sul corpo. Sono un modo di raccontare la propria storia, di indicare un avvenimento importante, di quelli che ti cambiano, che ti fanno crescere. Il risultato è El Mariachi, che Rodriguez scrive, dirige, monta e produce. Un film che se ne frega delle storie tradizionali, delle regole, delle aspettative. Quando l'ho pensato volevo che fosse un film assurdo. Un film che parlava di un ragazzo che suonava la chitarra, non del solito ex poliziotto o del solito genere di guerriero solitario. Rodriguez lo realizza in una piccola cittadina messicana appena al di là del confine e riesce a convincere gli abitanti del paese a recitare gratis per lui, compresi la direttrice della prigione locale e il secondino. Il risultato è un film troppo particolare per piacere al mercato dei video latino. E questo segna la fortuna di Robert. Nel tentativo di rientrare del budget speso, Rodriguez prova a far circolare il suo film, inviandolo a compagnie di distribuzione, fino a quando non riesce a svegliare la curiosità della Columbia Pictures, che lo acquista. In fondo il film costa davvero molto poco. Da lì, El Mariachi riesce ad arrivare fino al Festival del Film Indipendente di Sundance e a raggiungere il successo. Il film El Mariachi del giovanissimo Robert Rodriguez diventa un piccolo caso. Nessuno è preparato a vedere una pellicola completa costata solo $7,000. E in più a godersi un vero spettacolo, una storia intensa, eccessiva, assurda e assolutamente unica nel suo genere. Non guardare a quello che fanno gli altri. Pensa solo a quello che stai facendo tu. Come a qualcosa che sia estremamente innovativo, perché se ti metti a guardare e a imitare gli altri, sei morto. Forse però la cosa più originale del film è proprio il suo regista. A Hollywood non sono abituati a gente come Robert, un tipo che non vorrebbe mai lasciare casa propria, dove si è costruito una piccola sala di montaggio autosufficiente e che non è interessato ai grandi budget dello show business. I cineasti si avvitano su se stessi quando pensano di aver bisogno di trovare più soldi possibili. Va a finire che il produttore inizia a cambiare le cose per assicurarsi di rientrare nel suo denaro. Quindi il filmmaker inizia a compromettere il suo lavoro, così tanto che finisce per odiarlo. Così anche il pubblico pensa che faccia schifo e alla fine non ci guadagna nessuno. La convinzione di Rodriguez dell'importanza di mantenersi indipendenti dalle grandi major è tale che, sull'esperienza di El Mariachi, il regista scriverà un libro, Rebel Without a Crew, un ribelle senza troupe, che come sottotitolo recita, ovvero come un cineasta di 23 anni con $7,000 riesce a farcela ad Hollywood. Nel libro Robert aggiunge anche un'ampia sezione con consigli per i suoi lettori su come realizzare i propri film low budget. Inutile dire che Rebel Without a Crew diventa una sorta di bibbia degli aspiranti registi. Hollywood vuole tutto. Io invece non voglio possedere nulla. Io non voglio che la gente pensi ad accontentarsi. Voglio dargli più possibilità. Insegnargli a creare contenuti propri che possano poi fruttare in qualsiasi mezzo. Il successo di El Mariachi permette a Rodriguez di poter lavorare a un nuovo progetto, intitolato Road Racers, commissionato dall'emittente televisiva Showtime. È una piccola cosa, ma è un passo avanti. Il prossimo sarà, sì, un vero film, se lo sente, una produzione seria, The Big Thing. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati parliamo di due latini che ce l'hanno fatta nel durissimo mondo dei gringo americani. Sono il regista Robert Rodriguez, un giovane texano figlio di genitori messicani, e di Salma Hayek, la splendida protagonista della soap opera Teresa, grandissimo successo della televisione messicana alla fine degli anni Ottanta. Il loro incontro li proietta nello show business di prima linea americano, un luogo dove in genere i latini possono tutt'al più aspirare a parti da caratterista. Paradossalmente invece, proprio perché disponibili a giocare fino in fondo la carta della loro ispanicità, Rodriguez, con l'aiuto della debordante personalità di Salma, riesce insieme a lei a dar vita a una sorta di compendio eccessivo e orgoglioso di tutte le caratteristiche latine. Quando ho iniziato, ho dovuto sopportare tutto il peggio in termini di discriminazione razziale a Hollywood. Era inconcepibile per i registi e produttori americani che una donna messicana potesse avere un ruolo da protagonista. Invece, proprio realizzando Desperado, Rodriguez e Salma Hayek creano un genere riconosciuto da tutti che diventa protagonista, tanto da essere considerato, insieme a El Mariachi, uno degli episodi di quella che viene definita la trilogia messicana. L'ultimo film che chiude la trilogia è C'era una volta in Messico. Deve passare qualche anno prima che Rodriguez abbia voglia di chiudere questo capitolo della sua vita e nel mezzo ci sono almeno 5 film. Ma certo, questo film è una cosa che sente di dover fare assolutamente. E se il titolo della pellicola vi fa suonare un campanello nel cervello, non è un caso. È una chiara citazione del film di Sergio Leone C'era una volta in America. La paternità del titolo è uno dei nuovi migliori amici di Robert, conosciuto grazie ad Hollywood, a un party. È qui che Robert incontra il regista destinato a diventare un grande amico e mentore, Quentin Tarantino. La stima di Tarantino è tale che scrive anche la sceneggiatura del primo film di Rodriguez dopo Desperado, Dal tramonto all'alba, dove si riserva anche una delle parti. Insieme a lui recita anche George Clooney e Harvey Keitel. Ma nel cast Robert Rodriguez non può dimenticare quella che ormai per lui è un po' la sua attrice portafortuna, Salma Hayek. Nel film, sulle note di questa canzone, Salma, con indosso solo un minuscolo bikini, si muove sensualmente su un palcoscenico di un nightclub. Intorno al collo ha un pitone che accarezza lentamente. Il suo nome d'arte è Santanico Pandemonium. E Salma appare di una bellezza satanica e pronta a scatenare il pandemonio fra gli avventori. Santanico si avvicina al tavolo dove Tarantino, Clooney e Keitel sono seduti e, guardando negli occhi Quentin, gli si avvicina. Poi prende una bottiglia di tequila e si versa il liquido sulla coscia nuda piegata. Così facendo, attraverso l'alluce del piede che infila nella bocca di Tarantino, la donna gli fa scivolare il liquore in gola. Raramente si era mai vista una scena così sensuale prima. Salma è di una bellezza assoluta, quasi inquietante. La sua scena dura solo qualche minuto, ma diventa il keyframe dell'intera pellicola. Una consacrazione. Da allora Salma intraprende una carriera che la posiziona saldamente fra le star di Hollywood. Il fatto che sia messicana e che il suo inglese sia ancora fortemente accentato sembra improvvisamente non interessare più nessuno. Ho un accento messicano, ma questo non significa che io sia solo una bambola latina. Dopo Dal tramonto all'alba, Salma lavora con grandi nomi come Russell Crowe, Matthew Perry e Ben Affleck, fino a recitare per Steven Soderbergh in Traffic. La sua carriera è tale che riesce anche a imporre le sue idee, come quella di realizzare un biopic, un film biografico su Frida Kahlo, la famosa pittrice messicana dalla vita tumultuosa. Nei panni di Frida, che la incuriosiva sin da quando aveva 13 anni, Salma si sente perfettamente a suo agio. Da piccola non mi piaceva il suo lavoro. Lo trovavo brutto, grottesco. Ma qualcosa mi ha incuriosito. E più l'ho conosciuta, più ho cominciato ad apprezzarne il lavoro. C'è dentro un sacco di passione, di profondità. Alcune persone ci vedono solo dolore, ma io ci vedo anche ironia, umorismo. Penso che quello che mi attira di lei sia il fatto che fosse una combattente. Molte cose avrebbero potuto comprometterne lo spirito, come l'infermità o l'infedeltà del suo grande amore, Diego Ribeira, ma niente ha potuto schiacciarla. Il film viene presentato al Festival del Cinema di Venezia e l'interpretazione di Frida vale a Salma una nomination come migliore attrice protagonista agli Oscar. Vincerà poi Nicole Kidman con Le Ore, ma per Salma il riconoscimento è importantissimo. Spanish eyes, prettiest eyes in all of Mexico. True Spanish eyes, please smile for me once more before I go. Intanto Robert Rodriguez continua per la sua strada, fatta di produzioni che spaziano dai film per ragazzi alla trasposizione cinematografica di famosissimi fumetti come quello di Sin City di Frank Miller. Frank è un narratore talmente visivo che se si studia la sua opera si capisce subito che i suoi libri, tipo Sin City, sono già come i migliori film mai visti sul grande schermo. Sin City e Spy Kids sono pellicole che permettono a Rodriguez di sperimentare ogni tipo di tecnica visiva possibile. La prima persona che di solito si assume in un film fatto di effetti speciali come questo è un supervisore degli effetti. Io no. Ho subito voluto capire come farli da solo. È solo questione di essere più creativi. Spy Kids, per esempio, sembra un film costoso, ma è fatto tutto di trucchi magici. L'ho modificato nel mio garage. Volevo sentirlo come una cosa mia, altrimenti sarebbe stato come uno di quei tanti film per bambini fatti in studio che sono semplicemente orribili. Questo invece, in fondo, è come un gran film casalingo. Il risultato di questo sistema di lavoro è che un film come Spy Kids, che avrebbe potuto costare anche 100 milioni di dollari, come è costato La carica dei 102 o Inspector Gadget, è costato solo 36 milioni, raccogliendone poi più di 100. Spy Kids è un film dichiaratamente dedicato ai figli di Rodriguez, 5 per l'esattezza. Perché quando si nasce nelle grandi famiglie, è difficile poi abbandonare quella sensazione di compagnia e gioia che l'avere tanti fratelli ti dà. E Spy Kids è il modo di Rodriguez per dire quanto ami i suoi bambini. Ho sempre voluto essere papà a tempo pieno, stare a casa, fare arte e fare film. Forse in questa dichiarazione esce fuori l'anima più latina di Rodriguez, molto simile a quella di Salma Hayek, che dal suo miliardario francese François-Henri Pinault, sposato a Venezia, ha avuto una figlia, Valentina. Ho voluto insegnare a mia figlia ad abbracciare le sue radici messicane e ad amare la mia madrelingua, lo spagnolo, per conoscere la storia del Messico, la musica, l'arte popolare, il cibo e persino le caramelle con cui sono cresciuta. Cosa significa essere latini? Forse proprio in queste risposte. Due personaggi che hanno raggiunto l'apice della fama con determinazione e costanza non dimenticano le cose importanti della vita. L'impegno sociale. Da anni Salma è in prima linea per combattere la violenza contro le donne. Mentre Robert persegue da anni il suo sistema di realizzare film a basso costo, nei quali lavorare a quasi tutte le fasi produttive, dalla scrittura al montaggio, tanto da essersi guadagnato il soprannome di One Man Crew, l'uomo truppa. Ma soprattutto la famiglia, i figli. Un sistema di affetti con al centro il grande cuore latino. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.